fior d'amore, stringiti a me sul cuore, ti voglio bene, dimmi, e nulla più. Darmi così potrai quello che invan sognai, un po' di sole con queste tre parole, solo tre parole, ti voglio bene, sono queste sole che vuole il cuore. Quante frasi ancora sa insegnar l'amore, dolce lusinghiere, ma nessuna dà questo sogno d'ora di felicità. Solo tre parole, ti voglio bene, son però le sole che io dico a te. Ma se tu vorrai, la mia vita avrai, perché il solo amore, l'unico tesoro, piccola sei tu. È stanco già il mio cuore, non crede più all'amore, perché già mai trovò sincerità. Ma se vorrai provare, tu lo potrai salvare con tre parole splendenti più del sole. Solo tre parole, ti voglio bene, sono queste sole che vuole il cuore. Quante frasi ancora sa insegnar l'amore, dolce lusinghiere, ma nessuna dà questo sogno d'ora di felicità. Solo tre parole, ti voglio bene, son però le sole ch'io dico a te. Ma se tu vorrai, la mia vita avrai, perché il solo amore, l'unico tesoro, piccola sei tu.